Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno! Domenica 8 aprile, la domenica di Pasqua. Quindi buona domenica e buona festa dalla redazione della trasmissione di Restiamo Animali, Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci. È la sesta puntata di Restiamo Animali, un viaggio, un invito a esplorare i diversi modi di vivere, pensare e agire in maniera davvero cruelty free, cioè senza sofferenza e morte per gli altri animali. Giuseppe, che sorpresa musicale tiri fuori dal tuo uovo di Pasqua di cioccolata fondente e strettamente del commercio equo e solidale? Più di ogni altra cosa, coltivate l'amore altruista e la compassione. Con lo spirito pieno d'amore, mettetevi al servizio degli esseri nel pensiero e nelle azioni. In particolare, non nutritevi della vita degli altri. Per colui che è impregnato di compassione, consumare carne è altrettanto spaventoso che, per una madre, divorare quella di suo figlio. Con queste parole di Matteo Ricard, monaco buddista e uomo più felice del mondo, voglio iniziare la carrellata sulla playlist. Per la puntata di Pasqua si apre con il sarcasmo ironico di Battiato, che racconta la domenica di Pasqua a grado. Indimenticabile la strofa, ci si illumina d'immenso mostrando un poco la lingua al prete che dall'ostia, a sottolineare che l'evoluzione spirituale non passa dalla mera forma. Proseguiremo con un bassista trevisano che, iniziando la sua carriera dal progressive, si è evoluto nel pop italiano cantando e suonando testi metaforicamente barocchi. C'è spazio per una giovane e famosa cantante inglese che, osservando il suo cane, è diventata vegetariana. Viene il dubbio che qualcuno come te è dedicata a lui. Una banda di cavalli con i suoi arpeggi elettrofolk ci condurrà all'Ippoasi, mentre la pantera di Goro, esempio unico di felino italiano, ci porterà al mare. Un ex monaco benedettino che ora vive in eremitaggio alle pendici dell'Etna ci canterà una vegetarian song che sembra un po' una filastrocca. Adatto alla giornata è senz'altro Mahler, con le sue sinfonie tese fra vita e morte, ricerca del sacro e tradizione popolare recuperata dalla memoria, dove presente e passato si fondono, immergendo l'ascoltatore in un vortice di sensazioni. Ho scelto il secondo movimento della seconda sinfonia, che per l'appunto si chiama Resurrezione, sotto la direzione di Pierre Boulez. Ascolteremo ancora una versione di un classico degli anni 70 ispirato ad un utopistico mondo pacifico. Finiremo con la sacerdotessa del rock ed un suo classico dedicato alla domenica di Pasqua. Legami, approfondimenti, curiosità e diforate sulla playlist e il programma, naturalmente, li potete trovare sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com o sulla homepage di Controradio. E per chi ci vuole riascoltare, c'è il podcast da scaricare. La dedica di oggi è per Bruno Canzian, detto Red, bassista e cantante dei Pooh. Trevigiano di origini semplici, è figlio di un camionista. Bruno Canzian suona prima nei Prototipi e poi negli Osage Tribe. Infine suona nei Capsicum Red, peperoncino rosso, da cui poi il suo nome diventerà Red. Tipo eccentrico, famoso per le sue brevi e numerose love stories e per il suo look stravagante, tutto stivaletti rossi e pelliccioni bianchi, Red cerca in vario modo di bucare il video, facendo anche la comparsa in qualche film a Cinecittà. Come hobby, Red Canzian ama fare i bonsai e si interessa di animali. Ha avuto anche un merlo indiano che si chiamava Susanna, cui i Pooh hanno dedicato il pezzo Susanna e basta, dall'album Viva del 1979. Oggi Red Canzian è vegano. Dopo 15 anni senza carne, l'ultima bistecca è stata una canina a Firenze che non ha digerito, da 3 anni non mangia più nemmeno i derivati. Dice che è stata una crescita interiore frutto dell'attenzione crescente verso le cose che lo circondano. Era un pescatore provetto e possiede ancora 30 canne da pesca, ma non sopporta più l'idea di divertirsi bucando la bocca a un essere vivente. Lo fa star male sapere che al mondo sono rinchiusi 15 miliardi di animali a scopo alimentare, a fronte di una popolazione di 7 miliardi di persone. È convinto che l'uomo, con un intestino lungo 9 metri e senza canini sviluppati, non sia adatto ad alimentarsi di carne e, interrogato sulle difficoltà che incontra, dice: fa stare così bene sapere di non costare la vita a nessuno. Grandissimo Red, che nel sito promiseland.it ci invita a partecipare alla seconda edizione del Vegan Fest, dal 27 aprile al 1 maggio 2012. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Oggi una puntata speciale con un'incursione a Milano a Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Un'anticipazione del futuro che siamo chiamati a costruire e che forse, diciamo forse, ci aspetta. Siamo andati a dare un'occhiata con il nostro sguardo antispecista. E si sa che l'antispecismo è una brutta bestia. Ecco il nostro reportage che comincia, manco a dirlo, col cibo. Siamo qui a Milano, alla fiera Fa la cosa giusta, è il tempio del consumo critico, l'avamposto del consumo critico in Italia. Ma come mangiano questi consumatori critici e gassisti italiani? Ma dal punto di vista alimentare è tanto avamposto, non direi. Qui davanti a me ho delle salsicce terrificanti, sembra veramente un tuffo nel passato. Magari accanto c'è il muscolo di grano e ci sono anche locali che fanno piatti vegani, sia della tradizione sia nuovi, però nell'insieme non sembra che ci sia una grandissima maturazione, diciamo la verità, c'è ancora parecchio da imparare, parecchio ancora da diffondere. Cioè mi sembra che il registro salutista biologico sia più forte che non una rimessa in discussione del rapporto tra uomo e ambiente che vada un po' più a fondo, te che dici? Sì, no, ancora temo che questo passaggio non ci sia, una mano magari ce la può dare il recupero delle tradizioni più genuine della agricoltura contadina, allora magari vedi lo stand pugliese dove le fave, la minestra di fave si accompagna con le orecchiette fatte senza l'uso di animali, però non c'è sicuramente una consapevolezza su quale sia la natura del rapporto uomo-animale e come vada cambiato per una società non violenta, come nell'insieme in realtà la fiera del consumo critico vorrebbe costruire. Quindi non violenti, non praticanti? Non violenti, non praticanti, violenti, poco consapevoli di esserlo. Eppure, parlando di cibo, a Milano qualcosa di innovativo l'abbiamo visto. Sì, è vero, non dobbiamo essere manichei. C'è un'insufficienza d'insieme dovuta alla mancanza di una coscienza politica sulle implicazioni dell'antispecismo e quindi della lotta contro l'oppressione sugli altri animali. Ma ci sono esperienze che già guardano al futuro, a quella società dell'autentica eguaglianza che ispira le nostre azioni. Ad esempio ecco un catering vegetariano nato all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Pini di Milano. Ne abbiamo parlato con Alessandra Durante della cooperativa Aromi a tutto campo. Noi nasciamo come gemmazione da un'associazione che si chiama Giardino degli Aromi e che coltiva all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico, coltiva piante aromatiche, orticole bio da 10 per 12 anni, inserendo in tirocinio e borsa lavoro persone che provengono dai vari servizi psichiatrici della zona. Abbiamo pensato di costituire questa cooperativa che mantenga il vegetariano come base, perché nasce appunto su un progetto di coltivazione di piante, di erbe, raccolta di piante selvatiche spontanee eccetera, e nello stesso tempo aprirci al mercato attraverso quello che sul mercato riusciamo a dare, quindi manutenzione del verde per terrazze, giardini eccetera, e catering vegetariano per la nostra società. Anche perché poi ci crediamo, molti di noi sono vegetariani di partenza, quindi tra l'altro ultimamente cresce molto anche la richiesta del vegano, quindi c'è una maggiore consapevolezza dei vegetariani e c'è una richiesta maggiore, sì. Adesso facciamo una prova assaggio, vediamo se l'alternativa vegetariana vegana è valida dal punto di vista del gusto. Possiamo assaggiare? Sì. Questo che cos'è? Questa è la farinata di ceci con cavolo rosso e cipolla. Quindi è un piatto vegano? Questo sì, assolutamente. C'è l'uovo. Proviamo. Vegana? La povera. Senza essere vegani, una volta la cucina contadina era vegana. Cucina povera buonissima, un sapore speciale. Confermo, assolutamente strepitoso il gusto. Bravi, complimenti. E girando fra gli stand e poi visitando anche il locale in piazza 24 Maggio, abbiamo scoperto un ristorante davvero speciale. Si chiama Mudra, è un bistrò di cucina vegana di altissima qualità. Abbiamo incontrato Marco che ci ha dato una visione complessa e originale di questa scelta. Sì, siamo dell'idea che madre natura abbia previsto questo tipo di alimentazione per l'uomo, e quindi non vedo la visione estremista della cucina vegana, sinceramente. Secondo me è nulla di più naturale. Noi siamo arrivati a questo progetto perché in passato avevamo soltanto l'associazione olistica, dove insegnavamo yoga, danza e meditazione, e poi questo non può che aprirti altre porte. Se tu porti attenzione sulla tua vita, su quello che fai, logicamente in maniera consecutiva vai a portare anche attenzione a tutto ciò che ti sta attorno. Hai un maggiore rispetto per te stesso, diciamo, racchiudendo in poche parole. E noi non abbiamo voluto etichettarci, inizio premettendo questa cosa qua, anche sulle locandine, sulla pubblicità, nell'insegna stessa non è indicato ristorante vegano, anche perché ci riconduciamo a quello che ti dicevo prima, secondo me è naturale mangiare così, quindi non vedo perché devo etichettarmi. Perché dire vegano non basta giorno oggi come oggi, bisogna essere attenti anche alla provenienza, alla qualità dei prodotti, che siano biologici, che non siano raffinati, che non siano troppo modificati dall'uomo. Quindi vegano, secondo me, è un termine che oggi come oggi è un pochino antiquato. A noi interessa diffondere questa cosa, non ci interessa parlare tra gente che già abbraccia questo tipo di filosofia. Ci piace portare luce dove c'è l'ombra. Se parliamo tra di noi, le cose cambieranno ben poco. Devo dire che comunque la clientela tipo del Mudra sono donne che vanno dai 16 ai 90 anni, quindi hanno già... Purtroppo ci rientro. Ai 16 anni. Quindi abbiamo della clientela che è già attenta a quello che mangia. Le nostre specialità sono le lasagne al radicchio, le lasagne di tofu, che così andiamo ad abbracciare anche a chi ha problemi con il glutine, perché non c'è la pasta viene sostituita dalle sfoglie di tofu. O se no al seitan, trattato in molti modi, in versione tagliata, con gli agrumi o con la birra, o se no facciamo anche il brasato con la cipolla, ci divertiamo. Mudra è un bel esempio da imitare, ma comunque non ci possiamo illudere. Ecco qualche intervista raccolta fra le persone in coda allo stand del muscolo di grano, un surrogato vegetale della carne che ne evoca la consistenza e anche il nome. Infatti nel suo listino imperversano porchetta, spezzatino, rosbif, bresaola e così via. Sentiamo le motivazioni di chi lo compra. Le posso fare una domanda? Sì. Lei è qui in coda per il muscolo di grano. Lei è animalista, vegetariano, vegano o semplicemente curioso? Non sono né vegano né vegetariano, ma se non mangio carne mi sento meglio. Voi siete qui in coda per assaggiare il muscolo di grano. Siete vegetariani, vegani, curiosi, animalisti? Curiosi. Curiosi. Stessa cosa. Lei sta guardando lo stand del muscolo di grano. Volevo sapere se era vegetariana, vegana, curiosa. No, non sono curiosa. Vedo che sta assaggiando il muscolo di grano. È curiosa, vegetariana, vegana, animalista? C'è un motivo? Sono curiosa. Curiosa, sì. Lei? Vedo che sta assaggiando il muscolo di grano. È vegetariano, vegano, sono curioso? Vegetariano, e la Erika è la mia maestra. Lei è vegetariano? Vegetariano, vegetariano. Ah, da quanto tempo? No, 20 anni. 20 anni. Grazie a lei. Vedo che siete incuriositi dal muscolo di grano, volevo sapere se eravate vegetariani, vegani, curiosi? Curiosi. Curiosi? Scusi signora, vedo che lei è incuriosita dal muscolo di grano. No, perché io è già qualche anno che lo conosco. E lo usa perché è vegetariana, vegana, curiosa? No, perché è buonissimo. Perché è buono? Ha poche calorie. Ed è fatto con lenticchie, tutta roba a base di verdure. E quindi la fa star bene? Sì. Vedo che è incuriosito dal muscolo di grano. Lei è vegetariano, vegano, no, curioso, onnivoro? Onnivoro. Onnivoro. È buonissimo. Com'è? È buonissimo. È buonissimo. Vedo che siete incuriositi dal muscolo di grano. Siete vegetariani, vegani, curiosi, onnivori? Noi siamo vegani. Voi siete vegani? Sì. Oh, finalmente due vegani. Quindi lo usate abitualmente o non lo conoscevate? No, lo conoscevamo ma non lo usiamo abitualmente anche perché da noi non si trova. Ah. Quindi per finire, due casi che ci rincuorano. Una marca di scarpe, Cammina Leggero, che propone scarpe vegan di pregevolissima fattura e molto carine dal punto di vista estetico, frutto della passione di Carolina Pini e Marco Gatti di Pavia. E poi un marchio di abbigliamento specialissimo, si chiama Randagio. Ho anche comprato una maglietta con questo logo, che è una bellissima impronta di cane stilizzata. Ma cominciamo con Carolina Pini, che ci racconta com'è nata l'esperienza di Cammina Leggero. È nata da un'esigenza personale prima di tutto, che ci ha portato a cercare un materiale che potesse sostituire il cuoio, la pelle, ma che ne garantisse le qualità di vestibilità e di estetica anche. Così ci siamo orientati a un materiale come la microfibra, che riprende esattamente quelle che sono la struttura della cute, quindi un materiale traspirante, anallergico, e che ci ha permesso di creare delle calzature che adesso proponiamo a un pubblico anche non vegano, e che ci permette così di veicolare anche il messaggio animalista, etico, che è alla base del nostro progetto, proprio perché le persone vedono il materiale e dicono: ma cosa è la pelle? E noi allora possiamo raccontare che invece non lo è e che è un materiale più virtuoso e più sostenibile. Qui siamo a uno stand che ha un'idea geniale, si chiama Randagio ed è in pratica un banchetto dove si vendono maglie, borse, altri accessori per finanziare un canile di Erba e Mariano Comense. L'impronta di un cane è il logo che viene riprodotto su magliette e vari indumenti, tutti dei prodotti secondo criteri biologici e del commercio equo e solidale. C'è questa grande scritta che campeggia, Randagio, che quindi viene capovolto nel suo significato, diventa una cosa positiva e da valorizzare. Il top della maglietta è questa stupenda maglietta arancione con la scritta Randagio Life is Bau. Un'altra ancora è Mi piaci, bastardo. Propongono una festa, una cosa eccezionale, un raduno e una sfilata di ex ospiti dei canini, alla quale si può partecipare anche con il proprio cane. Chi sei e cosa fate con l'associazione? Io sono Marco Follori, responsabile del canile di Mariano Comense di Erba, e partecipiamo a Fa la cosa giusta per far conoscere il nostro marchio, gestito dalla cooperativa di Erba, il marchio Randagio, dove i proventi di questo marchio, detratte chiaramente le spese di gestione, servono per finanziare le nostre attività. Il marchio in pratica è una linea di abbigliamento alla fine? Il marchio è una linea di abbigliamento accessori che abbiamo volutamente legato a un prodotto di qualità, quindi proveniente dal mercato ecosolidale o da artigiani locali. Per dare un'idea del Randagio come qualcosa di bello, come in realtà sono. Infatti è capovolto un po' l'immagine. Perfetto, abbiamo un po' azzardato questo capovolgimento, ma devo dire che è il quinto anno che ci siamo e i risultati mi stanno dando ragione. È una forma quindi di fundraising originale, sì, attraverso l'abbigliamento. Esatto, di fundraising, e soprattutto quello che dico io, la nostra è una vendita che segue tutto un discorso prima, perciò ci teniamo a dire che è una vendita sì importante perché i fondi inutili legati, ma è importante sapere cosa c'è dietro l'acquisto di un capo, e quindi diciamo che uno si avvicina, chiede cos'è il canile, le nostre attività, cosa facciamo, si informa e sa che acquistando un capo comunque bello contribuisce ai nostri progetti. Certo, viva allora questa forma di promozione innovativa. Quindi mai più senza un Randagio. Certamente, e per informazioni e per l'acquisto di queste geniali magliette che appoggiano il canile di Erba e quello di Mariano Comense, www.randagiolifestyle.org. E per chiudere in bellezza questa nostra analisi antispecista e animalista della fiera Fa la cosa giusta di Milano, ci siamo fermati allo stand dell'Intergas, quindi del coordinamento dei gruppi di acquisto solidale di Milano e Interland, per capire quanti siano quelli che rivendicano una loro scelta non violenta, vegetariana o vegana. Allora, siamo nello stand dell'Intergas, gruppi d'acquisto solidale della Lombardia o di Milano? Milano e dell'Interland. Ecco, volevo sapere, all'interno della rete dei gas di Milano Interland c'è una sensibilità vegetariana, animalista? Ci sono dei gruppi d'acquisto solidale che si dichiarano animalisti, vegetariani o vegani? A me non risulta, come gruppo non risulta. I didn't give to you. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Ah! Dopo il nostro speciale molto apprezzato sull'Italian Horse Protection di Montaglione, un quotidiano nazionale ha dedicato due pagine a questa realtà. Per questo abbiamo deciso di parlare ancora di cavalli. Siamo tornati a Lippoasi in una giornata assai ventosa e abbiamo conosciuto Oliver, cavallo da corsa a trottatore. Christian ci racconta la storia del suo particolare temperamento. Ha sempre mostrato sin da piccolo un carattere molto molto deciso e si è sempre opposto a tutto il mondo di schiavitù, che è quello appunto dei cavalli da corsa. Tant'è vero che per riuscire a farli esprimere tutta la forza che comunque mostrava di avere, hanno tentato in tutti i modi di farlo, di costringerlo a farlo con fruste elettriche, con addirittura tirarlo con una catena ad un trattore. Insomma, ne hanno veramente provate di tutti, cercando di uccidergli questa sua forza indomabile, ecco. Che gli diceva no, questa non voglio correre. E non ce l'hanno fatta, e la sua fine sarebbe stata appunto quella, come tutti quelli come lui che si oppongono a questo sfruttamento, a questo dominio, e sarebbe stato appunto quello della morte, in età ovviamente molto giovane. E Oliver non si sa perché ha incrociato me in questa vita, e da allora è stato un amore a prima vista e non ci siamo più lasciati. Infatti ora è 16 anni che siamo insieme. Poi Christian ci racconta di come si è evoluta la sua relazione con i cavalli e quindi anche con Oliver. I cavalli, forse vabbè, come tutti gli altri animali, sono esseri senzienti come noi, per cui provano emozioni, provano paura e felicità. Riteniamo che come noi pretendiamo libertà, pretendiamo una vita serena senza che nessuno ci imponga di fare un qualcosa, anche loro pensiamo abbiano queste aspettative. Oliver ci ha mostrato proprio questa via, per cui abbiamo iniziato a sferrare i cavalli, a togliere le imboccature, a montare senza sella, fino ad arrivare alla conclusione che i cavalli, se vuoi veramente rispettarli, non vanno assolutamente montati. Quindi una posizione critica forte nei confronti dello sport ippico e di tutti i modi in cui i cavalli vengono utilizzati anche nelle sagre, nelle fiere, pensiamo al Palio di Siena, eccetera. Quando si guardano gli sport ippici sembra tutto così, no? Semplice, una lieve tiratina. Assolutamente. E alle redini il cavallo risponde. Però Christian, sei stato tu a spiegarci che cosa significa per il cavallo quella tiratina di redini. Assolutamente. Spieghiamolo agli ascoltatori che forse non se ne rendono conto. Cosa succede nella bocca del cavallo quando viene tirata la redine? L'imboccatura agisce appunto in una zona dove non ci sono denti e si chiama barre. Qua appunto ci sono le gengive che sono subito sopra all'osso. Tra la gengiva e l'osso ci sono tantissime terminazioni nervose, dove ovviamente fanno sentire subito dolore al cavallo appena c'è un po' di pressione da parte dell'imboccatura. Questa è veramente una minaccia incredibile, dove basta una piccola forza e loro sono costretti a fermarsi o a ubbidire, perché altrimenti andrebbero incontro a un dolore enorme. Piano piano si può creare anche un soprosso, delle diciamo forme di ribellione proprio del corpo stesso, e noi non facciamo altro che aumentare la forza con delle leve, con tantissimi meccanismi per aumentare questa minaccia di dolore. Quindi più coercizione, più obbedienza. Meno obbedienza, più coercizione, mi stai dicendo. E questa è la ricetta. Assolutamente. Se non ti inchini al mio dominio, io ti faccio male. Questo è un po' tutto il principio di ogni tipo di doma verso ogni animale. Ogni addestramento, ogni tipo di addestramento. Grazie Christian, soprattutto per averci aiutato ad aprire gli occhi su cose rispetto alle quali c'è tanta poca consapevolezza. Grazie a voi. Grazie, ciao. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Vi Vegetariani alle prime armi, c'è un libro che fa per voi. Vegetariani e allora, un manuale semiserio di sopravvivenza per neo-vegetariani di Gabriella Crema e Viviana Ribezzo, edizioni Cosmopolis. Chi comincia questo percorso spesso si trova davanti un muro di malcelata ostilità da parte di amici, parenti, colleghi di lavoro, semplici conoscenti. Altre volte invece le preoccupazioni sono sincere. La mamma o l'amico del cuore hanno paura di vedervi stramazzare al suolo dopo nemmeno un mese di astinenza dalla carne. A ogni colpo di tosse vi ricorderanno che state per diventare anemici, siete ormai senza forze e rischierete di morire per un banale raffreddore. In ogni caso rassegnatevi. È normale che tutti vi facciano mille domande, talvolta senza davvero voglia di capire le vere motivazioni della scelta vegetariana e vegana, ma per il gusto di farvi cadere in contraddizione. Per sapere sempre cosa rispondere, ecco che questo libro viene in aiuto di ogni neo-vegetariano, ma anche di chi questa scelta l'ha già fatta da anni. Si comincia con la storia del vegetarismo e una carrellata di vegetariani VIP, da quelli storici come Leonardo da Vinci e Plutarco ai contemporanei Sting, Boris Becker o Pamela Anderson, perché quando l'amico vi dirà che essere vegetariani fa male al cervello o al fisico, potrete avere dei validi metri di paragone, senza però illudervi di diventare da un giorno all'altro come la sensuale bagnina di Baywatch. Molto utile il capitolo sulle regole da seguire per una corretta alimentazione e quello delle ricette per pasti equilibrati. Chi viaggia troverà indispensabile anche il vocabolario per poter ordinare piatti veg anche all'estero. Esilarante e fondamentale è il capitolo delle FAQ per avere risposte pronte alle classiche obiezioni e domande che almeno una volta nella vita sono state fatte a tutti i seguaci dell'alimentazione veg. Anche le verdure soffrono, l'uomo è carnivoro, ma allora cosa mangi? Da studiare e imparare a memoria, per non essere mai in imbarazzo e riuscire a zittire anche il carnivoro più ostinato. E per incuriosirvi vi leggeremo due brevi estratti dal libro. Beh, non sono vegetariano, ma anch'io amo gli animali. Certo, specialmente se ben cucinati. Comunque è vero, tutti amano gli animali, del resto come si fa a non amare un agnellino? È così bello, così tenero, così dolce, così buono. Manca solo un po' d'olio, un po' di sale e poi è perfetto. E poi a Pasqua, come rinunciare al simbolo del sacrificio cristiano? Beh, il prossimo anno, invece di sacrificare l'agnello, potresti sacrificarti tu e rinunciare a quelli che consideri i piaceri della gola una volta l'anno. Tanto per cominciare. Ma se non mangi né carne né pesce e nemmeno salumi, che cosa mangi? La risposta migliore è un invito a cena. Meno impegnativo è regalare un libro di ricette vegetariane e ancor meno, comunque piuttosto efficace, è compilare un lungo elenco di alimenti o piatti vegetariani da esibire in caso di bisogno. In questo caso basterà estrarre dalla tasca il vostro chilometrico elenco e cominciare. Beh, io mangio bruschette al pomodoro, crostini con patè vegetale, pasta al pesto, al sugo, con ragù di verdure, aglio, olio e peperoncino, pasta e ceci, riso e piselli, lenticchie in umido, orecchiette con cime di rapa, lasagna al verde, torta di zucchine, pizza ai peperoni, farinata, sformato di carote, vellutata ai funghi, spezzatino di seitan, patate al forno, patate fritte, verdure in pastella, verdure ripiene, zucchine in carpione, pomodori sott'olio, peperonata siciliana, ravioli di magro, minestrone di verdure e risotto ai funghi, porcini ripieni, melanzane al funghetto, insalata di carciofi, pasta alla zucca, crema di asparagi, panzanella alla romana, ravioli di magro con salsa di noci, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Si stancheranno prima di voi, o magari verrà loro voglia di assaggiare le vostre ricette. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il picnic fuori porta è più sano se nel paniere hai un buon pasto vegano. Ecco un classico esempio di dithirambo vegan. E dopo il gran pranzo di famiglia della domenica, il lunedì c'è l'usanza di fare una gita fuori porta per assaporare la primavera. Previsioni meteorologiche permettendo, a questo fine vi suggeriamo alcune idee per partire con comodi panini farciti cruelty free. Che fanno felici chi mangia e chi purtroppo solitamente viene mangiato. La proposta del giorno è frittatine con farina di ceci. Oh, finalmente un piatto easy and popular, a dispetto di chi pensa che sgranare vegano sia radical chic. Ingredienti: una tazza di farina di ceci, due tazze d'acqua, sale, pepe, noce moscata e cumino? Se proprio non puoi farne a meno. Ormai è una dipendenza, magari all'ASL c'hanno pure un servizio per combatterla. Poi abbiamo un ingrediente segreto. Oddio, non mi dire che è l'ovo. Ma che c'è, la febbre? Deliri? No, non mi fido, sono vegan suspicious. Trattasi invece di innocuo pangrattato. che l'è pure di molto sostenibile. Se volete renderle ancora più sfiziose, potete aggiungere alle vostre frittatine verdure e ortaggi come porri, patate, zucchine e via dicendo. Preparazione: in una ciotola mettere la farina di ceci, il sale e le spezie. Pian piano incorporate l'acqua, rigirando per evitare la formazione di grumi. Come lo sai che mi si formano i grumi? Aggiungete le verdure scelte che avete precedentemente cotto o fritto e rendete uniforme il composto. Uniforme sarà lei. Perché a te solitamente vengono i grumi, vero? Confessa. I grumi non vengono a me, vengono all'impasto appena mi vede, però è misteriosa questa cosa. Dopo mettete qualche cucchiaio di pan grattato che rende l'impasto meno liquido e farà diventare le vostre frittatine più soffici. Lasciare riposare per 30 minuti circa in modo che l'insieme diventi compatto e cremoso. Infine, prendete il composto a cucchiaiate. Oh, cos'è? Violenza culinaria? È solo un gergo da cuochi. Ah, io me la cavo meglio con il tahino. Che è la salsa? No, è la lingua delle Bahamas. Dicevo, disponete cucchiaiate del composto nella padella con poco olio e iniziate a friggere. Una volta cotte, riponete le fragranti leccornie su un piatto in cui avete sistemato della carta assorbente. Naturalmente possono essere un secondo gustoso da accompagnare a delle verdure o insalata. Per fare i panini della gita, insieme alle frittatine potete mettere anche qualche foglia di insalata per rendere il tutto più morbido al palato. Altre idee vegane per farcire possono essere delle verdure grigliate con capperi, olive e qualche mandorla, oppure qualche salsetta sfiziosa tipo di olive o pomodori secchi, a cui potete aggiungere dei derivati del tofu o del seitan confezionati in fettine sottili. Lasciate briglie sciolte alla fantasia e buona gita, naturalmente se il tempo lo permette, perché io sgrano vegano. Sostiene Vallauri. Professor Luigi Lombardi Vallauri, oggi è Pasqua e dobbiamo assistere all'ennesima strage in nome di una festa religiosa. Che cosa è avvenuto perché si producesse questa pratica? Ci sono almeno 5 punti focali dell'argomento. Il primo è il sacrificio biblico dei primogeniti, un tempo anche umani, poi animali, e il terribile passo all'uscita dall'arca, quando Yahweh dice: siate il timore e il terrore di tutti gli animali sulla terra, in cielo, nell'acqua e anche delle bestioline che formicolano nella terra. C'è la preferenza assoluta, direi quasi sfacciata, di Yahweh per il sacrificio animale di Abele rispetto ai sacrifici vegetali di Caino, che producono la gelosia letale di Caino. Il secondo punto è la Pasqua ebraica, l'immolazione dell'agnello per scopi che adesso è laborioso ricostruire, ma che certamente formano l'antenato della Pasqua cristiana. La Pasqua cristiana è Gesù crocifisso, Agnus Dei, agnello di Dio, immolato per noi. Pasca nostrum immolatus est Christus. Ma la vera e propria Pasqua cristiana non è il rinnovamento della Pasqua ebraica, è la celebrazione della risurrezione di Gesù. Io credo di essere lo studioso italiano che se n'è più occupato, perché negli anni 70 ho scritto un lavoro in cui dicevo: è il problema cruciale dell'umanità, quello a cui l'UNESCO dovrebbe dare il massimo di finanziamento, perché sapere se risorgeremo con la carne come Gesù, cioè con un multicorpo al tempo stesso spirituale ma anche sensoriale, non pura anima platonica, mi sembrava la domanda strategica sul significato dell'essere al mondo dell'uomo. E devo dire che quella indagine sulla risurrezione di Gesù, che era piuttosto apologetica, cioè concludeva dicendo: non c'è dubbio che i primi cristiani hanno avuto la fede nella risurrezione, anzi che il cristianesimo è nato dalla testimonianza delle apparizioni di Gesù risorto a un certo gruppo di discepoli. Non c'è dubbio che la fede e la testimonianza dei primi cristiani sulla risurrezione di Gesù, vista personalmente attraverso le apparizioni, che questa fede è l'origine del cristianesimo e al tempo stesso sembra difficile che nasca da una fede precedente, quindi io sostenevo qualcosa di straordinario deve essere avvenuto. Ancora oggi, che sono molto lontano dal cristianesimo, in particolare dal cattolicesimo, quel mio lavoro, che era fatto con puro spirito scientifico, mi interpella. Detto ciò, non si capisce assolutamente perché la Pasqua venga celebrata con una carneficina di agnelli, che si iscrive tra le grandi carneficine cristiane, la strage di Tacchini del Thanksgiving Day, la strage di Capponi del Natale, la strage di maiali del Capodanno, la strage appunto di agnelli a Pasqua e la strage di pesci tutti i santi venerdì. Il passaggio da Gesù vittima a queste stragi è tutt'altro che chiaro. A questo bisognerebbe aggiungere la oscenità della gourmetizzazione recente di queste stragi, in particolare dell'agnello pasquale, ma a questo forse dedichiamo un'altra trasmissione. E siamo in chiusura, buona Pasqua a tutti dalla redazione di Restiamo Animali, Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Giuseppe Cocco, Lorenzo Guadagnucci vi danno appuntamento per domenica prossima alle 12. Aspettiamo commenti, pensieri, consigli al nostro indirizzo di posta elettronica restiamoanimali@controradio.it. Visitate anche il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.